Soprattutto se arrivano da zone lonfie, No, io che valutessi ai nigeriani che fanno, è vero che fanno il comodo loro, stanno diventando i padroni di certe vie. Io alludevo ai senegalesi, quelli lavorano, sono abbastanza ligi alla... E c'è i nigeriani, spaccio, prostituzione e chissà cos'altro. Il problema è la gente che viene da fuori, cioè non se, la colpa non è la nostra, la colpa è di chi c'è cazzo di venire da fuori, che porta un sacco di casini. Da una parte vogliono eliminare il virus, ma dall'altra non vogliono far collassare l'economia del tutto, non del tutto, quanto basta per i loro giochi. Avevo sentito nel pomeriggio, c'era Daniele, c'eri tu, chi altro c'era? Poca roba comunque. Cosa ti posso fare? Come a tu? Cosa ti posso fare io? No, niente. Peccato perché era una bella giornata oggi, però non me la sentivo di uscire. Domani dovrebbe essere altrettanto bella. Lo sai che quella ringola l'ho sistemata? Il modello nuovo? Quella che avevi tolto e avevi messo la seconda? Sì, ho capito che cos'era, si è staccato il pezzo, il rivetto, vabbè. Dove c'è il rivetto? La seconda cosa è quello centrale, ne è venuto via, me ne sono accorto che si muoveva dentro. L'ho riparata, gli ho messo il bullone pure là. Ma va, chissà, si rabbiazzo. Chissà dura una vita. Metti due antenne accoppiate, si può fare, c'è il doppio del guadagno, almeno credo. Tu ti riferisci all'isolatore, sì, anche da me è partito quello. Si è staccato lo stiro dall'isolatore ed era tenuto lo stiro solo dal mollone quasi. Era balla balla, capito? Ma lo vedi come sono costruite? Gli danno appena appena di silicone o colla, cos'è quella cosa che ci mettono. Cioè non si fanno così le antenne che devono durare, però tu contanto che quella è un'antenna da 38 euro, quella che ho avuto io, che è il nuovo modello della Lemme, ricco. Cioè se costa 38 euro c'è motivo, hanno risparmiato su tutto, anche sul progetto. Astuto le attaccano. Ma ciao Natali, domani che si stacca più chissà cosa. Quello lì, come l'ho fissato io, gli ho fatto un lavoro, gli ho fatto Natali, che è la fine del mondo, l'ho provata. La giubbuccia in occhi, a 1-1 di stazionaria, manco si muoveva. Ehi, a chi avrei fatto avere un ciao Natali. E beh, quando è che ti tagliano, che cambi sesso? Ehi, adesso non mi sa niente. No, tutto a terra, almeno divento signorina. Almeno possiamo acciuffare anche, basta che ti metti una parrucca bionda per essere più appetibile. Vabbè, ma ti immaginate ancora, so che buruveo e mi si vuole acciuffare. Attenante! Ricordatevi, in tempi di crisi non si butta via niente. Attenzione Antonio, sai che ti deve anche andare, tu ti può stare un travaglio qui, che mi pare pericoloso. No, che va per travaglio, no. Ci ti piglia la confidata. Forza via. Questo travaglio a me può fare. E non c'è se si vuole fare a me, sono come un rufeo, cazzo. Ma Natalino ha il suo perché. Ma un bacio Natalino. Ho detto, ma Natalino ha il suo perché. Sarà così sicuramente. Ha il fascino dell'uomo vissuto. Abbiamo un bastone. Non ti sento chi a te. Speriamo che mi... Io ho fatto già tutto, ho fatto Marco. Il pre-ricovero l'ho fatto. Prelievo in più perché non gli è bastato il sangue per vedere se sono fabbrico, ho dovuto fare un prelievo in più. Sempre di sangue, sì, spero. Se volevano sapere se ero fabbrico, cosa ne ha futaesi, non ha giù capito. E loro sommano tutto. No, io avevo sentito che per vedere se sei celiachiaco ti fanno la gastroscopia, ma è vero? Penso di sì, Adesso non me lo ricordo, ma penso di sì. No, no, no, per carità, mi tengo la celiachia se lo fossi. Per una gastroscopia, quando lavoravo in quel settore lì, le facevamo da sopra e da sotto. Ah, il natalino? Ah, il caro caro. Perché da sopra da sotto? Attenandi! Da sotto era un problema che era grossa la situazione. Ah, pure grossa era. Da sotto sì. Era tipo quelle telecamere VHS mia, cassette grandi, tutta infilata dietro. Vabbè, a qualcuno se tanta necessaria la dovevo pur fare. No, vabbè, quella parte di scherzi, quella diciamo da dietro si chiama... Come si chiama, Natali? Mi sfugge la colonoscopia, quella lì. Facevano tutto lì, no? Sì, ma hai detto che un medico quando perdeva la pazienza andava al tracciadura. Quello era dottor Cuccia, amico. Quando uno non collaborava al tracciadura va via. Ah, Natali, ma dove eri? Dove eri all'ospedale? Dove lavoravi? Le ambulanze portavo, però alle 7:30 chiamava sempre questo dottore che gli dovevamo portare il paziente per fare la gastroscopia o la colonoscopia. Ma lo vedi, adesso cosa sardo? No, ero in un'altra associazione quando facevo quello lì. Ma glielo preparavo io il malato, quegli infermieri manco lo toccavano il malato, al limite gli facevano l'anestesia, gli facevano un po' di vario. Usciva il dottore, era già pronto il dottore, il malato. Mi faceva il travaglio e mi si rubusciava la bocca. Scappa! Questa cosa, Natali? Ti entrano un tubo, no, lì, e fanno tutto, anche prelevano pezzi di tessuto pure, c'è tutto lì dentro, e vedono tutto dalla telecamera, no? Caffa, dai, è arrivata la pizza, dai, ci sentiamo! Ciao, Antu, buona pizzata! Io ho già mangiato lo stesso. Sì, di Guizzurano, Tiganti. Buonasera. Ciao T. Cazzo, è già poco veloce questa pizzeria. Ha telefonato 10 minuti fa, già pronta la pizza, all'anima. Vuol dire che non stanno lavorando troppo oggi. Magari la gente è uscita più a farsi un giro. Ciao T. E allora, buonasera a tutti. Poi da lunedì siamo zona bianca, quindi. Eia, ho letto zona bianca controllata, cioè con un po' di criterio tipo mascherine e niente assembramenti. Però almeno se si può uscire anche di sera un po' più tardi, il coprifuoco dovrebbe essere annullato, no? Almeno spero. Ma questo non lo so, ma so che così ho letto, poi non so se c'è ancora il coprifuoco o meno. Natali. Dimmi Tino. Ho detto, già mangi poco presto. Perché sono diventato diabetico, capito là? Da quella pancreatite, mi è giunto il diabete, bisogna mangiare a orario. Ah, beh, allora non d'accordo, dai. Bene. Ma pure come sta andando questa radio? Avete parlato in due. Ho detto fortunatamente, già ce l'ho sotto controllo. Si sente un bella una previsione, Natale. Marco. Io dimmi. Ma stavo dicendo, com'è che sta andando? È normale, è chiara? Allora, fammi vedere, la NL è tolto. Sembrerebbe di sì. Vabbè, sto usando il President, che c'è una timbrica tutta sua, però sembra che vada bene, fammela orecchiare, vai. La HR525 è questo, con il P5. E poi, vabbè, la mia modulazione è un pochino appaccata adesso, perché sì, sembra che vada bene. C'è tra il Timbrica di USA 3009 come ricezione. No, il mio 5005 ha avuto un episodio un po' accendevi, sai che nell'istante in cui accendi si accende tutto il display, no? Vedi tutte le icone, è rimasto così e non partiva, non si accendeva la radio, cioè non ricevevi, tutto bloccato. Allora cosa ho fatto? Ho staccato l'alimentazione, l'ho acceso per scaricare condensatori e tutto, riattaccato l'alimentazione, acceso ed è partito. E me l'ero portato in macchina, forse qualche sballottamento di troppo in macchina, sai, con le buche di Sassari, boh. Ma non credo che sia una cosa per quanto riguarda la strada, diciamo. Non lo so, non saprei cosa dirti, magari queste cose un po' mezzo digitale lo fa. Sai cos'è? Io me ne sono accorto. Il 3009 è l'unico che in macchina va bene. Il 3009. Questi digitali sono un po' delicatucci, o rientri di RF, o come in questo caso gli si annebbia la vista, vanno bene finché li usi a casa, però le magagne spuntano quando sei in macchina, capito? Apparecchi poco schermati, poi tutto SMD, poi sai cos'è? Questi per la programmazione canale ci hanno un firmware. Se parte quel microchip che c'è il firmware, parte tutto l'apparato. Invece quelli classici, vabbè, c'è circuitazione, ma è più semplice riparare, soprattutto i Saturn, quelli che hanno i componenti classici, mettino. Però purtroppo il progresso va avanti. Sì, come sto guardando il video, no? Come i classici accordatori, quelli manuali, quelli che praticamente non c'è quasi niente, vanno meglio di quelli più moderni, anche perché non c'è niente da rompersi all'interno, ecco. Comunque ne ho lette su forum qua e là, e questi apparecchi alla fine, quando c'è un guasto che non riesce a identificare, sono usa getta, o teno, perché nessuno ne aggiusta, non trovi i cambi, poi devi trovare il tecnico veramente, ma veramente bravo, che ne abbia anche voglia di riparare questo tipo di baracchini. Bisogna vedere se trovi anche gli schemi, è una rottura. Sono usa e getta. Praticamente è un progresso, ma è anche un regresso, se vogliamo. Perché i vecchi baracchini, di quelli riparabili come niente. Vai Natali. Sì, Caffarà, rimanga in ascolto un po'. Sì, io fra poco mi faccio il caffè. Bombo lo sta mangiando. Vedi, Natalino, per compensare me, Tino. Natalino cena presto, io pranzo tardi. Gente, lui stava cenando e io stavo pranzando. Vabbè, questo genere di gusti. No, io sono un pochino più retardatario su queste. Io verso le 9:30, va bene, dai. Soprattutto di sabato, di venerdì sera. La domenica no, la domenica pranzo e basta. Aspetta che sto parlando qua in verticale, di l'ultima parte della frase. Ho detto che io sono un pochino più ritardatario sulla cena, diciamo, verso le 9:30, al contrario della domenica che non c'ero neanche. Qua non abbiamo orari, proprio se vogliamo mangiare alle 5 di mattina mangiamo, se vogliamo dormire alle 6 di sera dormiamo alle 6 di sera. Non ci sono orari, non ci sono limiti, però un po' ti scombussola poi il tutto. Bene Tino, io vado a farmi il caffè e poi TV, un po' di TV, la serata è fatta, ok? Oggi non è buio totale, non ci sento l'anima. Sì, vabbè, magari un pochino più tardi entro, ma va bene, ti lascio fare caffettina e quant'altro, dai, sono in quella di X-Ascolto, sono PC. Ciao. Ciao, April. Ciao Tino, ciao Marco, là. Me ne passo in quel RT anch'io, là. Non ne ho voglia stasera, non mi sento tanto bene. Ehi, ok, ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao. Ciao. Ecco, sta portando. eri pure riuscito a spremere quel valvolare, Tino? No, cos'è qua? Sei poi riuscito a spremere quel valvolare? L'ho spremuto, vero? No, adesso sono per un'altra, eh? Sì, è diversa la modulazione, molto diversa. No, non è riuscito a farla andare più di tanto, no? Diciamo che fa intorno ai 500, 500 o 550. Ma dovrebbe andare bene, perché ha 5 valvole, una pilota, diciamo, e 4... Non lo so, ho detto che sta dando il suo. Sì, e con l'antenna nuova l'avevi vista? Te l'hanno girata su WhatsApp? No, sinceramente non l'ho vista, non so neanche di cosa si tratti. Sì, potrebbe essere la sostituta della Mantova. Un'antenna molto pesante, 6 kg, molto impegnativa, c'è radiali un quarto d'onda full size, 4 radiali, cioè radiali da 2,70 m, tiene 5 kW continui, però c'è un bel di pezzi, è molto complessa, è un'antenna un po' impegnativa, però potrebbe essere il top. Ok, di nuovo dai, buona serata, fatela girare da qualcuno, ci sono anche le istruzioni, montaggio e tutto, video eccetera. Ciao ti, ciao. Bene, vabbè, io ecco chi ce l'ha nel caso, dai, se senti qualcuno fa girare già, non so se hai neanche il mio numero tu. No, sì, il tuo numero no. Però guarda, l'avevo mandata a Claudio, l'avevo mandata a Massimiliano, l'avevo mandata a chi l'avevo mandata? A qualche persona. Adesso non a tutti magari. Dai, mi ti lascio in compagnia, mi pare che è rientrato Antonio. Vai Antonio, io chiudo, ciao. Sì, va bene, ma noi mi devo controllare il microfono, quindi rimango un po' lì, sai che sto facendo cosa qua, sono sul banco. Beh, ciao Antonio, se ci sei. Capa, com'è questa antenna? Di che marca è? Non te l'ho mandato attento, no, forse no, Grazioli, praticamente l'ex socio della Sirio Antenne, credo che sia il fratello anche, si è messo a fare un'antenna sua, è solo che è un bestione da sé, col tubo di sotto è totale 7,60 m, cioè 7,5 m d'antenna, compreso il tubo alla base, pesa 6 kg, c'è un isolatore tipo Mantova ma molto molto più spesso, come più spessore di fibra di vetro o quello che è, e c'ha 4 radiali full size da 2,70 m, è un barragione, impegnativa, c'è un bel di pezzi e tiene fino a 5 kW continui, non picco picco, è continui. Pillola buona, cos'è sta cosa? Costa un po', costa 159 euro, ma se conti che con quel prezzo prende una Game Master, siamo lì. La Sirio Blizzard credo che costi 10 euro in meno, 15 euro in meno, poi bisogna vedere se prende piede anche questa antenna, capito? Dai, più tardi, adesso devo chiudere, più tardi ti mando il link del manuale. A titolo di curiosità, a me a titolo informativo era. Vabbè, capa. Dice che è molto buona anche questa Super Lam. Era tipo Mantova, di quelle antenne pesanti, cioè il tubo bello grosso, e radiali, adesso non mi ricordo se era quella 16 o quella 8. E ne hanno fatte un bel. C'era la Super 16 che aveva 16 radiali. Tutte antenne belle col mollone sempre, mi pare di ricordare. Via. Vabbè Anto, dai, chiudo, ci sentiamo. Ok, no, era quella 4. Avanti Tino. Ha detto doveva far roba, Anto. Capo, comunque quella 4, quella che c'ha Fuzzaro a Sassari. Capito? Va bene, vai, vai. Non c'è problema. Via, ciao, ciao a tutti, ciao. Anche a chi l'ascolto, ciao. Ciao, ciao. Avanti. Anto, stavo provando il microfono, Cappa. No, perché poc'anzi è rimasto con la portante inserita, capito? Ovvero? 5? No, il 5. Sì, vabbè, siamo la stessa meccanica quasi, dai. Sì, vabbè, uno ha il tuo e l'altro no. Cavolo, comunque, io ce l'ho, cavolo, ma la ZG ha fatto dei buoni microfoni, la verità, Sì, è l'unica cosa che ho della ZG. Sì, sì, poi tutti questi macchini che vanno, beh, di prendere, modificare, fare, oh, ma cosa stiamo facendo? Cosa deve essere così normale? Se la radio spinge, il microfono spinge bene, non c'è problema. E la voce spinge, il microfono funziona bene. Tutte quelle modifiche io non sono d'accordo. Io invece sono al contrario, perché ci sono tutti quanti modificati. Scappa. Il mio non è modificato, ma esce una bomba. Potrebbe dare di più, per quello che tu dici. Poi, ognuno, ti ripeto, come tutte le cose, i gusti e i colori non si discutono. Scappa, lo lascio così perché va bene, cosa lo modifica a fare? Non funziona benissimo. Va bene, va bene. Dai, Antonio, stavo provando, l'avevo ripiazzato qua, sentiamolo qua a casa. Ok, dai. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Chi è davanti? E buon tu! E beh, e care! Ma buonasera, buongiorno! Buongiorno! Marino! E come vai tu? Bene, bene, e tu? C'avevo lo scambio attaccato, ho terminato il cavo lavoretto, stavo scaldando. Ma tutto ok. Va bene. Tu dici stamattina che sono passato col camion, ma non l'ho mai visto, vai. Sto riuscendo un po' padre dal tabacco. Stamattina presto, A che ora? Sono le 8 per caso. Sono le 8, sono scelto due o tre macchine. Abbassa leggermente la radio, Mari, che sia un bel foce. Strappa. Va bene così? Così va meglio, sì. Sono le 8. C'è tuo padre, c'è il mio collega Casino, già lo sai, là, la notizia, tu mi Antonio, ma tuo padre lo schiamo, il padre lo schiamo, come si chiama tuo padre? Perché stamattina è uscito lui perché doveva fare una prima bombola subito, capito? Se no lui non esce mai. Se andava bene, già esco io da voi. Già va bene. Non lo conosci, tutto qua. Già uccio, come te. Sempre con Uccio sei? Sì, sempre con Uccio, adesso sono una settimana, da lunedì sono una settimana in ferie, sempre con Uccio. Già la conosco bene, cosa stavo parlando il giorno, sì. Non l'ho più visto, non ci siamo più incontrati, comunque già la conoscevo bene, dai. Ma caghi, sono quattro di mio zio. Per carità, personaggio, Non posso nulla, non già lo sai, non posso nulla. Comunque, non sapevo che era tuo zio, dai, ma è tuo zio, cioè Marcello e fratello del padre Antonio. Antonio, torni, famiglia, ciao, te come, lasciamo perdere. Cappa, bella faccia, non è giunto né a vedere la mamma che è morta, non è giunto neanche a vedere, nemmeno la cognata. Quello lì già non va bene, quello non va bene, meglio nulla, per carità. Purtroppo ognuno ha il suo carattere, meglio usa, però se così, ma tutto come indietro, non hai capito? Già come indietro intanto. Allora come è successo Mari? Io te lo dico con l'unica cosa ce l'ha pigliata, un macco, sempre con la sedia per potenza. Praticamente allora c'era mia nonna che non sentiva bene il telefono, cioè perché a volte sai come fanno gli anziani, era già mannita, quindi si abbassava il coso. Si abbassava la per sentire il microfono. E io ho detto aspetta un attimino che ti alzo il microfono e poi ti passa la nonna. E ho detto, posso mio nonno, ti vengo lì ti piglia a fare di meda. E questa cara che piglia a fare di meda è dura, gli ho detto, bello bene. E poi è successo tutto un afferratorio, cioè un babbo e cose, viene, mi accendi, viene al secondo pitti, va bene che te lo posso vedere io, andiamo all'alberto, non mi tanti cigotti, tanti cigazzate. E io ho detto, mica se vengo io, già come ti porto la faccia, ha giudito, manco di candela, ma ci vuole anche rispetto, ci vuole. Ti ho detto, aspetta un attimino, ti ho detto, che perché nonna sicuramente ha toccato un qualcosa molto gentilmente e domenici così domenici con la prepotenza aveva sì che aveva bidu a che cosa e con la prepotenza dal giorno stesso un casino non ci ho più parlati, capito? C'è un altro personaggio, non conoscevo da questo personaggio, un cane, lo sai, tocco, abbasso, sollevo, allora sei personaggio, ragazzi, meglio nulla, meglio nulla. Ma vabbè, noi ci conosciamo una vita con tuo zio per tre cose, ciccia, niente da dire, non posso dire nulla. Ci siamo persi di vista e basta, non capito, non volevo tabacciare, non veniva a acquistare e così via. Poi io andavo da un amico che abitava leggermente più giù di lui e ci trovavamo e lo beccavo in casa di questo amico, è tutto qua. Un paio di volte ci siamo trovati insieme a Capino e c'è anche lui giù a Coso, come si chiama, Posto Maggiore, e eravamo insieme, abbiamo passato qualche giorno insieme, basta, niente di particolare, dentro tutto qua, avanti. Capa, e l'altro lo conosci l'altro, visto che fa già un carrozziere, l'altro Fiorenzo. Ma sai, non lo dico, ma per caso assomiglia a me, assomiglia, se non mi sbaglio. A chi assomiglia? No, forse stai sbagliando col vigile del fuoco, con Mario. No, non lo ricordo, guarda. Perché c'era uno, era precisamente usciva, e io passavo al corso, e dal corso usciva da cosa? Da Guaranello usciva, proprio lo so chi era. Assomigliava molto a Marcello, assomigliava. Guarda che abita qua a me, in quella via più su di qua, in via Santa Elisabetta abita, capito? Sì, probabilmente sia lui allora, non lo conosco, conosco Marcello perché diciamo ci siamo trovati un paio di volte insieme a Gavino, famiglia Gavino, mia moglie, mia figlia, mia cognata che è compare Gavino, eravamo fuori a Porto Maggiore, in quella zona, eravamo insieme, eravamo. Ho passato un paio di giornate e basta. Altri fratelli negativo non le conosco. E cioè, se ne vedo lo stesso quella persona che usciva dalla merda, sarà il fratello Marcello, fra di me ho detto. Dice, sì, e abita in Longhi, abita qua giù, mi vedi in Longhi, a pochi passi da qua abita. Solo che non è che non ci frequentiamo, niente, io sono proprio... Successe altre cose però, quello lì è già da tantissimi anni la storia. E dico sì, sono l'unico che è quel vigile del fuoco, ci parliamo, ciao, come stai, come non stai, con la moglie pure lì è successa un'altra storia, è successa. Chi sa però non con me, è successa con contro la moglie, con, cioè, tra mia zia, cioè un casino, ma sempre la solita prepotenza, sempre le solite cose. E purtroppo quando gli ho in famiglia c'è sui queste cose, non vedo niente a fare, guarda, non è solo a casa tua, pure a casa mia, e c'è la solita pecore, ha capito, io per quello oggi vediamo, beh, a mattina mi dice, io sono a casa mia, non me la fate nulla, io la vita me la farò con la famiglia mia, mia figlia, mia moglie, le mie botte, voi per l'angeli non me la fate nulla. Ora ciao a tutti, continuiamo, ciao ciao, ognuno che la sua città, dove lei va. Ho visto con una nostra presente, ho proprio la conosco, già lo so, io c'ho un fratello, Vigil Fuoco, vabbè, è in pensione, ha 20 anni, in pensione. Ho proprio la conosco e città. Sì, che te l'ha volto l'altro giorno, Mario. Ho giusto la tua fotografia, sì. Già l'ho conosciuto, sì, adesso, e vabbè, perché io sono meno 20 anni. Oia. Meglio, purtroppo un po' preoccupato, io lo so, ogni famiglia sai, c'è il piccolo, non si riesce a fare tu. Capo, ma tu con tuoi fratelli ti porti bene, sì. Guarda, io con i miei fratelli siamo rimasti in due, io ero il più grande, il Vigile del Fuoco. Tre sono morti, io e il Fagname. Tre sono morti, sono rimasto io. Vigile del Fuoco e basta. Vigile del Fuoco, ciao, non c'è la sua famiglia, come ci vediamo, tranquillo e basta, niente, ognuno sta, come si fa sempre, dai. Forse è molto più legato a Mario, forse, o all'altro, no? Che senso? Vabbè, io ho già stato con tutti, però ognuno già sta, conosce la famiglia e... Io già non conosco, c'è un po' di casotto, tramite i mondi, le via, le zia, poi il vogo, io per quello ho già bisogno, dovuto fare la io mi sottavo, chi vuole un ranga, chi vuole un ranga, non me la fosse nulla doppio. Io la vita mia non la faccio la famiglia mia, voi, ognuno vuole oggi le piante. Cappa, sempre prepotenti, sempre prepotenza. Roger, brutto, cazzo, tutti i fratelli della famiglia di Babbo, me è un po' caretto per io, che so che è morto, che so che abitava a Sedine, Franco, non so cosa ti ha in mente, che c'è già sempre un po' Graziella, anni fa, quello lì è morto, quello lì. Sì, io lo conoscevo Franco, lui sta aspettando, lo conoscevo bene, quello lì, parecchio. Torno alla comunità, controllami il segnale, come ti sta arrivando, tanto scusa. 9:20 mi stai arrivando, però la radio c'è, cioè, qua, o parli troppo alto tu, c'è, cioè, qualcosa che non va, cioè. Non è forse la stanza che è bomba, aspetta la bassa di meno, sono quasi a uno, è a uno, aspetta la bassa, guarda se va bene adesso, Antonio, forse è bomba la stanza, è vuota. No, adesso va bene. Ok, no, già lo conoscevo a Franco, grazie, sta, lo conoscevo a Franco, ci mancherebbe altro. Oioia, va bene, dai. Tutto ok comunque, Antonio, sì, la signora, sto bene? Cappa, tutto bene, sto bene. Qua siamo, sempre qua, tutto bene, Mari. Ehi, più bene di noi che sta? È meglio così, dai, sto contento, dai. Ehi, stiamo piano. Stiamo piano, già va bene, pensate che sia molta salute e appunto di riballarsi, Giulia. Guarda, da quando sono qua sono rinato, sto con la mia compagna, stiamo bene insieme. Facciamo tutto insieme, facciamo, stiamo bene. Cioè, mi ha fatto di lacrime, perché io ho passato pure io, non è potuto più, Maria, mamma mia. Sì, me lo posso immaginare, me lo posso immaginare, e va bene, dai, piano piano, va. Piano piano ti fa una famiglia anche tu, un po' di pazienza, un po' di pazienza è già fatta. Ma oggi ho conosciuto, va bene, anch'io ho accesso tardi, stavo facendo qualcosa, poi mi avevo preparato un po' di scena, ho approfittato e ho fatto un pezzo, ho tagliato un po' di erba, domani se ne voglia mi dai un altro pezzo, se mi stai a giocare, di nuovo a lunedì. Capo, allora c'è sfogliatore. È uno piccolino e oggi ho preso, l'ho smontato il capoattore, l'ho tutto soffiato. E c'è bloccato, ha detto magari si sono buccate le membrane, invece l'ho smontato, l'ho giocato a pezzi, l'ho tutto bello soffiato con il compressore, ha giocato il motto e ha andato bene, ha lavorato bene, va. Magari la sporco, la polvere di sera, capito? Capa, no, io li metto, lo metto in moto almeno una volta al mese anche, cioè anche durante... Se non è anche due volte, cioè, lo faccio andare, proprio per non crearmi problemi, capito? E poi il servizio, quando termino di lavorare, no? Se non è un miscela, tolgo la miscela, e poi faccio consumare quella che c'è nel tubo, diciamo, là, lo faccio proprio a secco a secco, capito? Così almeno non si rovinano le membrane e tutto quanto. Così quando lo uso nuovamente, lo do il cicchetto e lui è a posto. Capo, no, io lo faccio andare. Cioè, magari ogni 15 giorni lo metto in moto, capito? Non ha problemi, se ogni 15 giorni lo metti in moto non ti dà problemi, se da voi non vai e non lasci allora potrebbe darti dei problemi. Che olio stai usando? Adesso sono andato a usare olio di coco, sono andato alla camera, c'è l'assistenza Black Rack Devlar che vende tutto quanto, è un amico, ne ho preso uno, ma già è buono l'olio che ho preso, dai olio buono dunque. Già va bene. Io la miscela la faccio all'isavviso perché poi magari se non rimane mi tocca buttarla, invece all'isavviso preparo un litro e metto 20 mg di olio e va benissimo. Sì, anche io la faccio così, la faccio litro a litro, la faccio. Come olio, lo sai cosa utilizzo come olio? Uso il Castro Garden, però quello che costa di più, quello che costa 10 euro, che è buonissimo qua. O se no, qualche volta ho usato anche quello della Badrial, ma molto buono però, e sono sicuro che non mi si inchioda mai il motore. Una volta ho usato quello di MD, andava bene, lo sai, quello sintetico al 100%. No, non mi ha dato problemi. Va bene, vabbè, io anch'io usavo uno buono, altro poco, io la bottiglia da un litro, ho terminato, sono andato veloce alla camera, io sono appena uscito dal lavoro, mi sono avvicinato, ho detto una cosa, dammi una boccetta veloce, con quella boccetta che fai 5 litri, capito? Io ho preso una boccetta e ho già fatto 2 litri, ecco un carro, bravo, per un litro di salita, no, c'ho di scopa e ciccia. Non c'è da fare, no. Non c'è niente da fare, se uso macchie passate, si inchioda e così via. E poi lo faccio, all'inizio, prima faceva 2 litri e mi rimaneva sempre, non molto, un po' me lo rimaneva, poi mi trovo a buttarlo perché poi mi fa male al legislatore. Si svanisce, capito, era più bianco e non serve. Va bene, e tu che mi stanno chiamando, forse arriva la pizza. Ciao, tu, buonanotte, saluto la signora. Ci sentiamo domani, dai. Buonanotte, a domani si coincide. Ciao, saluto tutti gli ascoltatori e prendi cura di te. Capa, saluto di Marie. Usa sempre le taniche, quelle omologate, che sono migliori, tengono la benzina meglio quando vuoi fare la miscela. Dai, retta a me. Ciao, ciao, ci sentiamo. Ok, ciao, ciao, a domani, ciao. CQDX. Hola, CQ, CQDX. Hola.